Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Si chiude, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, nel senso si chiude la giornata e si chiude la settimana, una settimana molto molto intensa anche questa, che è stata caratterizzata soprattutto dall'arrostimento del Porcellum e poi da tutto quello che ne è conseguito con questa guerra tra i partiti e anche tra Camera e Senato, insomma una guerra totale, globale. E poi naturalmente in chiusura di settimana anche dalla morte di Nelson Mandela, che è morto ieri a 95 anni, il padre della battaglia anti-apartheid, del simbolo della lotta al razzismo. E pensate che è entrato anche nelle primarie Mandela, in questa polemica all'interno del PD con Civati, che ha attaccato Renzi per la foto pubblicata da Renzi e poi rimossa da Facebook, che lo ritraeva insieme a Mandela. Quindi è entrato a far parte anche di queste polemiche. Dopodiché sappiate, mentre sto per raccontarvi in sintesi la giornata per poi approfondire con i vari ospiti e argomenti, che è scappato un elefante dal circo a Roma, quindi diciamo non esistono soltanto le pantere estive, sapete, sempre qualche estate c'è qualche pantera che scappa nei campi, no, c'è anche un elefante che circola per Roma, povero elefante. Ma cominciamo dai fatti principali. Naturalmente dalla morte di Mandela, vi dicevo, il mondo gli rende omaggio. Il 15 dicembre si terranno i funerali nel suo villaggio. In Nigeria è stato rapito un tecnico italiano della Gitto Costruzioni. Maltempo, almeno 5 morti in Europa per la tempesta. Calcio inizia il 14 giugno con l'Inghilterra, il mondiale dell'Italia in Brasile, e poi bronzi di Riace, i due guerrieri tornano al museo che però è ancora chiuso al pubblico. Partiamo quindi dalla morte di Nelson Mandela, il leader sudafricano scomparso ieri a 95 anni, celebrato oggi da tutto il mondo. I funerali si terranno nella sua casa di Johannesburg e verranno celebrati domenica 15 dicembre. Mandela sarà ricordato in Sudafrica con una commemorazione solenne martedì 10 dicembre. Sono arrivati messaggi di cordoglio da tutti i paesi del mondo, da un numero incredibile di istituzioni, di personalità, di organizzazioni, di associazioni, ma di questo ne parleremo diffusamente più tardi, anche occupandoci di alcuni aspetti abbastanza inediti o poco conosciuti comunque della vita di Mandela. E parliamo adesso di un tecnico italiano che è stato rapito in Nigeria. Si tratterebbe di Marcello Rizzo, siciliano di 55 anni, impiegato della Gitto Costruzioni, gruppo con oltre 50 anni di attività nel settore edile in Italia e all'estero, che ha sede anche in Nigeria. Il Ministero degli Esteri chiede però il massimo riservo. E passiamo alla politica italiana. Siamo quindi a 2 giorni dalle primarie del PD. Prodi annuncia che andrà a votare, lo annuncia a sorpresa, e Berlusconi scrive una lettera ai suoi. Ha scelto di rompere con il governo, di passare all'opposizione, di qui toni e parole di Berlusconi che ben si adattano alla nuova strategia politica. Il Cavaliere scrive a deputati e senatori di Forza Italia, l'ex Premier invita tutti al massimo impegno anche in vista del rinnovo del Parlamento europeo e di possibili elezioni politiche nei prossimi mesi. Forza Italia è oggi l'unica vera opposizione non soltanto al governo ma anche ai pericoli che derivano dall'intreccio fra logiche politiche della sinistra e sistemi giudiziari, spiega ancora il Cavaliere. Questo disegno, al quale non sono estraneo nei più alti organi di garanzia delle nostre istituzioni, può essere fermato solo se saremo sufficientemente forti, compatti, presenti fra la gente, capaci di far capire a tutti la gravità della situazione nella quale la nostra nazione si è ritrovata. Berlusconi parla allora di fase costituente di Forza Italia, auspica che si componga in tempi rapidi una struttura agile, aperta, che sia capace di dialogare in modo capillare con il territorio. Siamo già a 3.000 club certificati, ricorda Brunetta, ritengo possibile arrivare presto ai 10.000. I club avranno compiti di controllo dei voti, incarichi organizzativi e sociali con il rispetto e l'aiuto verso chi è più debole. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E domenica, come vi dicevo, dunque, l'atteso voto delle primarie per eleggere il segretario del PD per Renzi. Stasera chiusura a Milano, poco fa praticamente, dovrebbe aver chiuso alle 21, infatti adesso è a 8:30 sulla 7. Se l'avversario più temuto, Cuperlo, ha incassato il sostegno di 200 donne che per lui hanno sottoscritto un documento comune, Stefano Rodotà ha scelto a sorpresa Civati. Ci ha ripensato, come vi anticipavo, Romano Prodi, che andrà a votare a Bologna, mentre il sindaco di Milano Pisapia ha fatto sapere che se ne resterà a casa. E passiamo alla cronaca giudiziaria. La terza sezione penale della Corte d'Appello di Milano ha assolto dal reato d'aggiotaggio, perché il fatto non sussiste, l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio e le altre 12 persone coinvolte nel tentativo di scalata alla BNL di Unipol del 2005. E poi il caso Abu Omer. A Milano la giudice Stefania Donadeo ha condannato in rito abbreviato a 6 anni proprio Abu Omer, l'ex imam sequestrato 10 anni fa, vi ricordate, in un'operazione CIA e Sismi. Vittima di sequestro, colpevole di terrorismo internazionale. 10 anni dopo il suo rapimento, l'ex imam di Milano, Abu Omar, viene condannato a 6 anni in rito abbreviato per aver progettato azioni terroristiche anche in Italia e accusato di aver fatto parte di un'organizzazione che si rifaceva ad Ansar al-Islam, gruppo qaedista che, come altri, progettava attentati. Era dunque già sotto il controllo della Digos e sarebbe stato arrestato pochi giorni dopo se il 17 febbraio 2003 Abu Omar non fosse stato sequestrato da agenti CIA con la compiacenza del Sismi, secondo l'accusa. Portato in Egitto, fu poi torturato. Per quell'operazione di extraordinary rendition, gli 007 americani sono stati condannati in via definitiva, mentre il 16 dicembre la Cassazione si pronuncerà sugli ex vertici del Sismi, Pollari e Mancini, già condannati a 10 e 9 anni in appello. Ma il verdetto dovrebbe slittare in attesa che il 14 gennaio la Consulta si pronunci sull'ultimo conflitto di attribuzione sollevato dal governo Monti e poi da Letta. Senza il rapimento, ora sarebbe scontato già la sua pena, commenta il PM Armando Spataro. La legge deve essere rispettata innanzitutto da chi ha l'obbligo di farlo rispettare ad altri. Il profilo d'attività di Abu Omar, e questo è emerso subito. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E occupiamoci adesso del quadro su imprese, famiglie e banche italiane che emerge in uno degli ultimi rapporti del Fondo Monetario Internazionale, dell'FMI. Un quadro piuttosto contrastato, Sergio Nava, sembra, no? Buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. Sì, un quadro ancora perturbato, quello che delinea l'FMI a proposito del sistema economico-finanziario italiano nelle note tecniche che rese note appunto questa sera. Un sistema che vede quasi un terzo delle nostre imprese detenere metà del debito verso le banche, il che presenta, dice l'FMI, una copertura dell'interesse a livelli vulnerabili. La situazione finanziaria delle imprese non finanziarie è fragile, specialmente nelle PMI, dice appunto il fondo, come evidenziato dai già alti livelli di insolvenza. Insomma, i debiti ci sono e si fa sempre più fatica a pagarli, soprattutto nelle piccole e medie imprese. Dalle imprese alle famiglie il quadro diventa contrastante. Le famiglie italiane, nonostante il calo dei redditi, hanno un debito basso, dice l'FMI, e i loro rischi sono mitigati dal considerevole patrimonio netto, ma si tratta appunto di un paese, alla fine quello che emerge, che sopravvive seduto su una ricchezza accumulata. Parliamo soprattutto di immobili, il mattone di cui le famiglie italiane sono notoriamente proprietarie. Se guardiamo infatti alle nuove generazioni, nota l'FMI, chi ha bassi redditi e soprattutto i giovani possiedono una quota sempre più bassa della ricchezza e appunto, come dicevamo prima, fa da cuscinetto spesso la casa. Un calo sensibile dei prezzi aumenterebbe i rischi. Infine, le banche appaiono ancora meno internazionali rispetto ai competitor stranieri, dice il fondo, e in questo paradosso per l'FMI risiede anche il limitato rischio di impatto negativo dall'esposizione estera delle banche italiane. C'è però una spia rossa, se vogliamo, sul monitor del fondo, ed è il fatto che le banche mondiali hanno ridotto significativamente la propria esposizione all'Italia, alle banche e alle imprese tricolori, esposizione scesa di quasi il 50% tra il primo trimestre 2008 e il quarto trimestre 2012, circa un quarto del PIL italiano. Grazie Sergio Nava. E dopo il quadro del Fondo Monetario Internazionale, il rapporto a tinte fosche del Censis, che parla di un paese sopravvissuto alla crisi ma a prezzo di un malcontento, quasi un'infelicità dovuta a un grande ampliamento delle disuguaglianze sociali, un paese fiaccato, smarrito, che vede le sue migliori energie fuggire all'estero, i famosi cervelli, la fuga dei cervelli all'estero, una società sciapa, praticamente senza fermento, disabituata al lavoro e con un diffuso immoralismo e una crescente evasione fiscale. Così ci vede insomma il Censis, che però nel suo rapporto 2013 non si lascia andare completamente al pessimismo, indica 3 possibili risorse per la rinascita, e cioè le donne imprenditrici, l'iniziativa degli stranieri e la dinamicità dei giovani. Sentiamo allora Giuseppe De Rita, presidente del Censis. Siamo infelici perché siamo sciapi, ci manca il fervore di crescere, ci manca il fervore di andare avanti, di fare imprese. Noi siamo sempre stati un popolo con il fervore, per esempio nella ricostruzione, nel miracolo italiano, nella storia dei consumi negli anni 60, nella crescita della piccola impresa negli anni 70, nel made in Italy negli anni 80 e 90. Noi abbiamo sempre avuto il fervore. Se perdiamo il fervore del sale diventiamo sciapi, ma non solo diventiamo sciapi, ma diventiamo infelici, perché restiamo fermi lì e quindi il precario non trova lavoro, il giovane non sa il suo futuro, l'anziano viene esodato e non c'è neppure la pensione. L'infelicità nostra è un'infelicità sociale, non è infelicità personale o nazionalistico. Quindi il binomio fra sciapo ed infelice va recuperato attraverso un aumento del fervore del sale, cioè una diminuzione del carattere sciapo per ridare sale, per ridare gusto, per ridare forza alla trasformazione. E adesso parliamo dell'Eni, o meglio del suo amministratore delegato Paolo Scaroni. Da giugno 2005 al timone di Eni, Scaroni punta al quarto mandato. Mi piacerebbe, così ha risposto oggi a Giovanni Minori a Mix24. Sentiamo. Il governo vuole per fare cassa privatizzare il 3% dell'Eni, lei è d'accordo? Ma la decisione non spetta a me, noi siamo l'oggetto di questa decisione. Ecco, privatizzare l'Eni vuol dire che l'Eni compra il 10% della sua azione e poi le butta per far salire il tesoro al 33%, che senso ha? No, ma non è proprio così. Noi compreremo le nostre azioni, se le condizioni di mercato ce lo consentiranno, nei prossimi 10 anni. Quello che vorrà fare il governo in termini di cessione della sua quota non lo so. Lo riguarda, ecco, quindi non è che vuole restare al 30% per nominare, avere il potere di nomina dell'amministratore delegato. Non credo proprio. Ma lei condivide questa politica di privatizzazione a qualunque costo? Ma dunque, per quello che riguarda il nostro settore, nessuna azienda concorrente nostra nel mondo ha partecipazione dello Stato, quindi dovrei dire che l'anomalia siamo noi. Senta, in altre parole però, sembra che se il 30% serve per nominare amministratore delegato, quei 6 miliardi che vi costano quel 10% servono per comprare la nomina da amministratore delegato. No, ma non è così, non è così. Noi non compriamo le nostre azioni, tantomeno per consentire ai governi di nominare gli amministratori delegati. Senta, in primavera ci sarà il rinnovo delle cariche, comunque. Lei ha fatto 3 mandati, aspira al quarto? Mi piacerebbe. E si parla anche dei bronzi di Riace, perché dopo quasi 4 anni sono tornati nel Museo Archeologico di Reggio Calabria. L'annuncio è stato dato oggi dal ministro Brai, ma il piccolo particolare è che il museo è chiuso. Loro, i bronzi di Riace, al Museo della Magna Grecia finalmente sono tornati. Ora mancano solo i visitatori, perché il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ancora è chiuso. Una rassicurazione arrivata in giornata dal ministro della Cultura Massimo Brai, il quale in conferenza stampa a Roma ha annunciato che il museo riaprirà entro 15 giorni, oltre un mese prima del previsto, ha precisato. La riapertura inizialmente riguarderà solo un piano, ha aggiunto Brai, mentre per godere di tutta la struttura bisognerà attendere aprile 2014. Costo totale del restauro museale 32 milioni di euro. Un primo passo per una scelta forte di valorizzazione del patrimonio, ha sottolineato il ministro, che in nottata ha assistito a Reggio Calabria al trasferimento in 2 poderose casse rosse dei capolavori greci dalla sede di Palazzo Campanella, dove sono rimasti invece dei 12 mesi previsti 4 anni alla sede museale. Esclusi per ora i prestiti, così come un trasferimento a Milano per l'Expo 2015, sono opere splendide e delicatissime, ha spiegato il ministro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura il calcio, sapete, oggi è stato il sorteggio dei mondiali e Carlo Genta, Prandelli ha detto l'Italia nel girone più difficile, l'ha detto nel senso come fanno i bambini, ecco, a me sempre le cose più difficili, o è proprio così? Mi sa che è così, Roberto, spero tu sia pronta al viaggio in Amazzonia, perché lì andrà l'Italia, tra l'altro in condizioni ambientali abbastanza difficili. Preparo le valigie, sì. Prepara le valigie, perché Manaus, Recife e Nadal per giocare contro Inghilterra, rispettivamente Costa Rica e Uruguay. L'Italia non era testa di serie, quindi ci si doveva aspettare un girone abbastanza difficile, questo è parecchio difficile. Tra l'altro, per gli italiani che non andranno in Amazzonia, si prepara anche una notte bianca con largo anticipo, perché l'Italia giocherà la prima partita con l'Inghilterra alle 3 ore italiana, quindi contro l'Inghilterra sarà probabilmente una partita già decisiva. Poi Per chi? E per tutte e due, perché pensavo ti sbilanciassi. L'Uruguay è un po' in ribasso rispetto agli ultimi mondiali in cui ha fatto benissimo. L'Inghilterra è comunque una grande del calcio mondiale. Prandelli ha sottolineato anche i titoli mondiali che si incontrano in questo girone, che sono davvero tanti. Costa Rica non mi sembra questa squadra pazzesca, o no? No, non è questa squadra pazzesca, però se ne passano due. E Prandelli ha detto di temere la Costa Rica più di tutte le altre, perché è l'ignoto, e quindi l'ignoto fa sempre un po' paura. Prandelli ha paura di questo, però se qualcuno voleva un girone difficile per cominciare subito con grande piglio al mondiale, è stato accontentato, perché questo è il girone. E non è semplicissimo, Roberta. E si comincia dal 14 giugno, e vinca il migliore. notte del 15, perché sarà già dicevi che erano le 3, le 3 di notte sarà già il 15. Chi ha voglia di avere le occhiaie il giorno dopo, va bene. Grazie Carlo Getta. Ciao Roberta. Ciao, ciao Carlo, ciao. Tra poco cominceremo a parlare allora delle primarie sotto vari aspetti, però prima di tutto, come sempre dopo le pause, vi ricordo quali sono stati i fatti principali della giornata. A partire naturalmente dalla morte di Mandela, il mondo gli rende omaggio, il 15 dicembre si terranno i funerali nel suo villaggio natale. In Nigeria è stato rapito un tecnico italiano della Gitto Costruzioni, il Ministero degli Esteri chiede il massimo riservo. Maltempo, almeno 5 morti in Europa per la tempesta. Calcio inizia il 14 giugno, in realtà ci spiega prima Carlo Genta, sarebbe nella notte che porta al 15 giugno, inizia il campionato, i mondiali dell'Italia con l'Inghilterra. Bronzi di Riace, i due guerrieri tornano al museo che però, come sentivamo, è ancora chiuso al pubblico. E allora, chi votereste domenica? C'è la pagina Facebook di Effetto Notte, ci sono i messaggi al 349-238-6666. Vedo già molti messaggi, adesso cerco un po' di distinguere. Però saluto nel frattempo Claudia Vanni, la nostra Claudia Vanni. Ciao Claudia. Ciao Roberto, buonasera, ciao. Che è lì dove Matteo Renzi sta chiudendo la sua campagna elettorale. Inizia alle 21 in realtà, ecco, prima mi ero confusa, non è che chiudesse alle 21, inizia, no? Inizia tra poco, sta iniziando adesso. Sono minuti di fermento perché il pubblico presente qua nella zona sud-est di Milano, in zona Lodi, tante persone, centinaia di persone stanno attendendo l'arrivo di Matteo Renzi, che è leggermente in ritardo perché era ospite in a 8:30, sì, si vedeva prima da Lilli Gruber, sì, sulla 7, esatto. Vedevo il suo viso prima, molto espressivo, e quindi ancora non è iniziato nulla al momento, c'è fermento, c'è molto fermento. Ti posso solo dire che sono circa 600 i posti a sedere, sono completamente esauriti, in più ci sono altre 300 persone in piedi che lo attendono e tante altre che sono rimaste fuori dalla sala ma per motivi di sicurezza non sono potuti entrare. Quindi oltre Claudia, poi 40 volontari. Dicevo, scusa, quindi un paesaggio umano diverso rispetto a quello che c'era, mi sembra, ieri a Napoli, che qualcuno ha mostrato una sala non così piena. Decisamente sì. E c'è stato un falso allarme, un grande applauso, si pensava che fosse arrivato appunto proprio Matteo Renzi, invece l'applauso è stato un omaggio al sindaco di Milano, Pisapia, che ha siede tra le prime file, con lui troviamo anche l'onorevole Fiano, l'onorevole Realacci, che ha manifestato un assoluto appoggio a Renzi, e poi tra le presenze anche Gori, Giorgio Gori, che l'aveva seguito dall'inizio. Giorgio Gori, che quindi con la sua presenza insomma sancisce in modo evidente l'amicizia che lo lega al candidato fiorentino. Claudia, rimani con noi, perché adesso ne parleremo un po', e poi appena chiedi subito la linea, appena appare facci sentire l'applauso, l'acclamazione, la standing ovation, vediamo che cosa succederà insomma quando arriva. Intanto saluto anche Sandra Zampa, buonasera. Onorevole deputata del PD, portavoce di Romano Prodi ancora adesso, vero Sandra Zampa? Sì, ufficialmente sì, sì. Autrice del famoso libro I 3 giorni che sconvolsero il PD, del famoso pasticciaccio dei 101 traditori, che ancora non si capisce chi sono, chi non sono, eccetera. Però lei qualche nome l'aveva fatto, Sandra Zampa? Sì, sì, sì, no, nel libro in realtà io ne faccio solo uno di nomi. Uno? Diciamo che si rivedano le motivazioni e gli ispiratori in un certo senso, ecco, le ragioni per cui è avvenuto, credo che quel libro cerchi di spiegare. Ricordo male, la cosa più importante. Ricordo male se dico Sposetti? Sì, Sposetti. Non ricorda male. Ricordo bene, la memoria ancora non mi tradisce. Sandra Zampa, c'è questa novità oggi, una novità dell'ultima ora di Romano Prodi, che padre putativo del PD, del Partito Democratico, in realtà probabilmente deluso da una serie di cose, diciamo così, tempo fa aveva detto no, io non andrò a votare alle primarie, creando un certo sconcerto, ma in particolare un certo imbarazzo all'interno del PD. Poi come mai invece oggi dà notizia che andrà a votare alle primarie? Cosa gli ha fatto cambiare idea, visto che lei è la portavoce e quindi conosce il suo pensiero? Dunque, senta, io voglio solo precisare che il presidente aveva deciso di non andare a votare, non tanto perché era deluso da alcune cose, quanto perché, come non per i 101 traditori. No, guardi, il problema del 101 non riguarda Romano Prodi, riguarda noi. È un problema molto grande che sta all'interno del PD, al nostro partito, perché ha messo in luce problemi politici, problemi anche etici, evidentemente, quindi sono interrogativi che ci dobbiamo porre noi. Sandra Zampa, è proprio un problema di questa settimana, ogni tanto si inabissa qualche ospite con il telefono, non so da che cosa dipenda. È vero che poteva essere probabilmente in viaggio Sandra Zampa, vediamo se riusciamo a recuperarla. Intanto c'è Renato Mannheimer per noi, professore. Buonasera. Notissimo, buonasera, sociologo, notissimo sondaggista. Che cosa vede e prevede per questa domenica 8 dicembre? Chi vincerà e con quali risultati? Ma purtroppo io non sono in grado di prevedere, se sapessi il futuro non so, giocherei al Superenalotto. Adesso diciamo, i quello sondaggi, che sì. È difficile prevedere il futuro. I sondaggi però unanimemente danno una vittoria più o meno netta di Renzi, quindi è ragionevole pensare che a meno di sorprese dell'ultima ora, che dipendono molto dall'affluenza per la verità, vincerà Renzi e Renzi sarà il nuovo segretario del PD. E con quale margine? Perché si diceva se appunto non guadagnasse più del 50 o almeno il 51 e più per cento sarebbe un po' azzoppato, sarebbe indebolito. I sondaggi cosa dicono, professor Mannheimer? I sondaggi lo danno al 60-70, quindi il margine dipende molto dall'affluenza, perché vede, Renzi ha un elettorato forte all'interno del PD, ma molto forte anche tra i non iscritti, tra i simpatizzanti, perfino tra gli elettori di altri partiti che lo vedono come un fattore di rinnovamento. E questo è risaputo, no? Sì, che già dal centrodestra dicevano. Sì, anche centro. E molti elettori anche di altri partiti intendono andare a votare lo stesso per appoggiare Renzi. Quindi più ampia sarà l'affluenza, più è probabile una sua vittoria netta. Comunque è ragionevole pensare che comunque superi il 50%. E quindi Cuperlo e Civati più o meno in che posizione sarebbero? A parte Cuperlo secondo e Civati terzo, ma con quali percentuali grosso modo? Questo è difficile da dire perché possono cambiare all'ultimo momento. Sa, gli italiani hanno preso l'abitudine di decidere all'ultimo minuto tutto, anche le elezioni. Nelle ultime elezioni a febbraio uno su tre ci ha detto di avere deciso nell'ultima settimana. E così accade anche nelle primarie, quindi davvero è bene, tanto mancano poche ore, è bene non avventurarsi in cifre e ragionevolmente. Per essere poi smentiti, dice professor Mannheimer. No, non è tanto quello, ma perché è inutile, ragionevolmente Cuperlo è secondo, Cuperlo va aumentando secondo alcuni il proprio vantaggio, la propria posizione in queste ore, c'è stato anche questo appello della CGIL, dei pensionati e così via, mentre Civati, anche se gode di qualificati consensi, sembra essere in terza posizione. Professor Mannheimer, abbia pazienza, rimanga ancora con noi perché poi vorrei chiederle invece a che punto stanno i vari partiti in questo momento. Grazie, abbiamo recuperato Sandra Zampa. Onorevole, no, di nuovo è caduta Sandra Zampa, c'è un problema e si vede che sul treno, naturalmente i treni viaggiano attraverso i territori non sempre coperti. Claudia Vanni, non c'è nessuna novità lì? No, non è ancora arrivato, stanno... È l'attesa, crea fermento, certo. È veramente attesa e tutti si guardano incontro, si guardano in giro sospetti, che poi è simpaticissimo perché ogni persona ha un cartellino attaccato al proprio collo con scritto il nome, quindi siamo un po' tutti amici. Riconoscibili, si vogliono far vedere bene in faccia. Sì, si può chiamare per nome. Claudia, rimani lì e intanto, professor Mannheimer, visto che Sandra Zampa, che le volevo chiedere insomma di Prodi, anche cosa votasse mai Prodi, perché qui Renzi, pensi che Renzi dice, l'ha detto a 8:30 poco fa, occhio e croce, Prodi vota o per me o per Civati. Forse è tornata Sandra Zampa? Sì, sono qua. Mi raccomando, stia ferma, immobile, fermi il treno, per favore. Chieda al, al capotreno un fischio. Stava talmente lento che guardi, non c'è bisogno che fermi. Ah, va bene, quindi con calma, parliamoci con calma. Stavo dicendo anche al professor Mannheimer, che è in collegamento, che Renzi poco fa ha detto a 8:30, occhio e croce, Prodi vota o per me o per Civati, perché mi sembra che Prodi abbia un'idea di rinnovamento, ma l'importante è che vada a votare. Secondo lei? È una buona previsione. Molto ambigua però, perché rimane tra Renzi e Civati. Non è ambigua, no. Credo che abbia voluto rispettare una volontà molto precisa del professore, e cioè che di non essere tirato per la giacca. Mi sembra un bel gesto da parte. Io d'altra parte ho tra i tweet, siccome me ne arrivavano tantissimi, ho mandato anche il mio diceva testualmente che chi rispetta il professore non lo tira per la giacca. Allora mi sembra più l'atto di generosità che il professore ha fatto verso il Partito Democratico e verso una causa che l'ha visto sempre fortemente in realtà coinvolto. Infatti, prima che cadesse la linea, intanto leggevo tra i tanti messaggi che stanno arrivando un ascoltatore che dice: dite piuttosto chi non votereste, io risponderei a questa domanda. Quindi è chiaro che Prodi non vota per Cuperlo, già sappiamo qualcosa, già un indizio. Però ci eravamo lasciate prima che cadesse la linea con lei, Sandra Zampa, che sul fatto che Prodi appunto ha cambiato idea, ci stava spiegando che non se l'era presa per i 101 traditori quando è stato impallinato come Presidente della Repubblica, ma cos'è che gli ha fatto rivenire voglia, insomma, di essere... Beh, certo, non è che quella vicenda lì gli possa essere piaciuta, è chiaro. Ha avuto modo di dire scherzosamente, più che lui uscito dal PD e il PD che è uscito da lui, insomma. Però non c'è un nesso tra la decisione di non votare alle primarie e quel fatto, c'è un nesso semmai tra il fatto che lui voleva togliere di mezzo un equivoco, non essere strumentalizzato, usato per dire chi avrebbe sostenuto, chi non avrebbe sostenuto, qual era la linea politica. Cioè, il professore da molti anni ha ripetuto a tutti: ragazzi, fatevi avanti. Però lui guarda i ragazzi che si fanno avanti, come lui stesso ha detto, magari anche a calci, cioè in maniera dura, sudandosela la pagnotta, non facendosi calare in una posizione dal proprio capobastone. Ecco, il rinnovamento a cui pensa Prodi è il rinnovamento necessario per costruire il Partito Democratico. Guardi, la classe dirigente uscente ci ha consegnato un fallimento. Io credo che sia venuto il momento di dirlo in maniera seria e in maniera vera. L'ultimo fallimento è stata la partita che si è svolta tra la sconfitta elettorale e la vicenda del Quirinale, che in un certo senso è stata una seconda sconfitta per come l'abbiamo gestita male. Sì, bisogna dire perché avrebbe potuto riaprire i giochi in qualche modo, no? Avrebbe potuto riaprire a un possibile governo, insomma, diverso, certo diverso da un governo partecipato dalla destra e da Berlusconi, perché così nacque. Sandra Zampa, leggo alcuni messaggi prima di fare un'altra domanda dalla pagina di Effetto Note, pagina Facebook. Tullio dice: io non voto, sono convinto sia solo una trovata pubblicitaria per un partito in crisi di consensi a causa delle troppe porcherie fatte. Daniele scrive: Renzi è l'unico che può contrastare il centrodestra. Mario: io voterei tutte e te, troppo bravi, addirittura un entusiasmo così unanime collettivo. Mario. Donata dice: Civati. Rita: Civati. Mirtilla: Civati, tutte queste donne Civati. E Elena dice: Renzi, ma ipotetico, perché dice non voto, ancora vedo un Civati. Lei, Sandra Zampa, chi vota? Io voto per Pippo Civati. Ah, bene, un'altra Civati. Tutte le donne hanno una certa simpatia per Civati, evidentemente. Senta, i prodiani comunque sono tutti e due, sono sia con Civati che con Renzi. Sì, da quello che diceva prima. Il professore appunto non va tirato in ballo su chi vota e chi non vota, è evidente però che c'è un disegno preciso che il professore ha portato, ha interpretato. E soprattutto vorrei tornare alle sue parole. Io credo che noi dobbiamo riflettere sulle parole che Prodi ha detto oggi. Prodi ha detto: quello che mi ha determinato è il rischio che si torni addirittura indietro del tutto e per sempre. Perché un ritorno alla legge proporzionale, alla legge elettorale col proporzionale, sarebbe la tomba del tentativo di cambiamento che in questi 20 anni comunque in qualche modo qualcuno ha cercato di costruire mettendoci il proprio impegno e la propria faccia. Chiarissimo. E la seconda cosa è molto importante, nell'ultima riga di quella brevissima dichiarazione il professore dice che c'è un momento drammatico della storia di questo paese, della vita, e si riferisce ovviamente al piano sociale, culturale, economico, e che quindi lui non può tirarsi indietro dal rimanere in fila insieme a tanti che desiderano il cambiamento e per questo vanno a votare alle primarie. Ecco. Benissimo, quindi va anche lui e ci immaginiamo e speriamo che prima o poi riprenda un ruolo importante allora nel PD. Grazie Sandra Zampa e buon grazie voto allora. Grazie a lei, arrivederci. Grazie. Professor Mannheimer. Sì. Grazie della pazienza. E quindi invece per quanto riguarda gli altri partiti, cioè tutti i partiti insieme, il quadro qual è nei sondaggi? Ma appunto, ripetiamo che i sondaggi fotografano la situazione attuale, certo, e che tanta gente decide all'ultimo momento, quindi i sondaggi sono fotografie e non previsioni. Attualmente il partito più popolare, diciamo così, è ancora il PD, che oscilla sul 30%, alcuni lo danno un po' sopra, alcuni un po' sotto, ma insomma quella è la cosa. Dopodiché viene il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha torto o ha ragione dopo il Vaffa Day, o come si chiama, ha avuto una crescita, adesso è attorno al 22, secondo qualcuno anche di più. Ricordiamoci, le ultime elezioni ha preso il 25% e ricordiamoci che ha uno spazio potenziale molto alto. Sì, è di crescita, ma sarebbe leggermente abbassato. Mi scusi un attimo, professor Mannheimer, sì. Claudia Vanni, forse è arrivato Renzi a Milano? Sì, c'è grande calcio, la musica è partita, si sta indirizzando verso il palco. Una rockstar praticamente. È arrivato, sì. Iniziano i primi battiti di mani, uno stato di fotografie in mare. Adesso potete sentire in sottofondo le persone battono le mani a tempo e incoraggiano la vita sul palco del candidato di Firenze per le primarie del PD. Non compare ancora sul palco, ma ormai possiamo dire che è arrivato allo spazio Calabiana, tutti hanno in mano i cellulari, quindi cercano di immortalare il momento. Probabilmente è la fase dei saluti con le prime file del pubblico presente, mancano veramente pochi attimi, ma ormai Matteo Renzi è arrivato. Grazie Claudia. E professor Mannheimer, quindi per finire, diciamo, il PD quindi al 30% è sempre il primo partito, il Movimento 5 Stelle grosso modo al 22. Poi viene Forza Italia che è attorno al 20. Il nuovo centrodestra ha avuto un boom iniziale, è arrivato fino al 10, spinto probabilmente dall'idea di novità che tanti elettori inseguono. Adesso è un po' sceso, è attorno, alcuni dicono il 6, altri il 5, altri il 6,5, ma siamo lì. Questi sono i maggiori partiti. Benissimo, Scelta Civica che punto è, visto che l'altra volta chiedevo alla segretaria di Scelta Civica, com'è che non vi si sente, che non parlate, che non vi manifestate? Scelta Civica ha avuto grande successo in passato, come sappiamo, poi è in uno stato di obiettiva crisi, è attorno al 3-4%, obiettivamente in crisi, con una netta diminuzione di consensi. Lì dipende molto da cosa diranno in campagna elettorale, ma adesso non sono è troppo messi un po' presto, un po' presto. Grazie professor Renato Mannheimer. Grazie, sempre prezioso. Sera, grazie, buonasera, buon lavoro. Di nuovo insieme e vi ricordo, prima di parlare di alcuni aspetti poco conosciuti della vita di Mandela, vi ricordo quali sono stati i fatti principali di oggi. Naturalmente, come dicevamo, la morte del leader del Sudafrica, il mondo gli rende omaggio. Il 15 dicembre si terranno i funerali nel suo villaggio natale. Nigeria, è stato rapito un tecnico italiano della Gito Costruzione, il Ministero degli Esteri chiede il massimo riservo. Maltempo, almeno 5 i morti in Europa per la tempesta. Calcio, inizia il 14 giugno, in realtà tra la notte del 14 e il 15 giugno, con l'Inghilterra e il Mondiale dell'Italia in Brasile. E c'è qui Gigi Donelli, collega. Ciao Roberta, buonasera. Qui di Radio 24. Gigi, con te parliamo appunto, intanto in questo momento, abbiamo detto, tutto il mondo rende omaggio a Mandela, anche Dilma Rousseff, la presidente del Brasile, durante la cerimonia dei sorteggi per i mondiali ha chiesto un minuto di silenzio a tutti i presenti per rendere omaggio. C'è anche l'India che addirittura ha decretato 5 giorni di lutto per Mandela. Uno dice, come mai proprio l'India? Beh, l'India e il Sudafrica hanno legami forti e storici. Tra l'altro Mandela è uno dei due soli non indiani, l'altra è Madre Teresa di Calcutta, ad avere vinto il Bharat Ratna, che è il Nobel indiano, tanto per semplificare molto. Cittadinanza onoraria. E poi ci sono dei legami storici formidabili, cioè tutta la costa orientale intorno alla città di Durban è quella che ovviamente guarda verso l'India, tra l'altro, ha una presenza indiana fortissima. Basterà tra l'altro ricordare che la vita del Mahatma Gandhi, di fatto il passaggio dalla sua vita di normale avvocato a leader di quello straordinario movimento che fu l'indipendenza indiana, di fatto iniziò proprio nel KwaZulu Natal, quando il Mahatma Gandhi venne espulso da un treno dove aveva un biglietto di prima classe, perché era un giovane benestante avvocato ma di pelle scura, venne cacciato dal treno su una fermata, buttato letteralmente giù dal treno perché non era bianco. Ecco, insomma, questo è solo uno dei tanti legami. Quindi l'India ha un legame storico, sono molti i paesi che ovviamente soprattutto dopo gli anni 90 hanno stretto dei fortissimi legami con questa figura che ovviamente è diventata un'icona mondiale. Ecco perché quindi questi 5 giorni di lutto, mentre in tutta l'Africa o in particolare in Sudafrica? No, Mandela è assolutamente... insomma, è difficile oggi cogliere la potenza di quello che è stato Mandela negli anni 90. Oggi è in fondo entrato anche nella nostra, diciamo, nella nostra percezione collettiva, ma un presidente nero, un uomo che appunto in 27 anni di carcere, con una condanna a morte sulle spalle dopo il processo del 62 a Pretoria, era considerato un terrorista comunista. Questo era il quadro di Nelson Mandela negli anni 70, perché ha lottato, l'abbiamo detto, simbolo della lotta all'apartheid, leader politico, avvocato, dove i neri erano naturalmente considerati una razza inferiore, no? Sì, ma c'era di peggio. La costruzione dell'apartheid in Sudafrica non era una questione di sensibilità, era una costruzione scientifica che ha fatto del Sudafrica un paese in qualche modo di un altro pianeta. E naturalmente quello che negli anni 50 ha visto il giovane Mandela protestare contro questo stato di cose, poi Mandela ha già nel suo nome Cosa, che è la tribù a cui appartiene, Rohilala, che vuol dire uno che cerca guai, ha un nome perfetto. 27 anni di carcere. Quindi comincia la sua attività da avvocato in una maniera, diciamo, canonica, ma presto si rende conto che non ha alternativa che non quella di sostenere invece un altro approccio. Quindi la capacità di Mandela di essere uomo di pace, uomo di dialogo, non gli ha impedito di essere un uomo d'armi e un uomo di combattimenti. Per carità, Mandela ha passato talmente tanti anni in carcere che materialmente il suo ruolo nell'attività militare è stato ben ridotto, ma è stato un'icona durante la sua attività, durante il periodo del carcere, e poi naturalmente è stato l'uomo straordinario che ha coniato quella definizione quando negli anni 90 appunto è stato liberato all'inizio, quindi nel 1990, è uscito in una società che temeva la vendetta sostanzialmente. Nel famoso discorso di Città del Capo lui ha detto: no, questa deve essere una nazione arcobaleno. Allora Gigi Donnelli, stavamo parlando di Mandela, tu dicevi che naturalmente è accostato a Gandhi, tant'è che l'India ha decretato 5 giorni di lutto, però non era un pacifista, no. Forse per questo che, diciamo, probabilmente in modo assolutamente massimalista e inappropriato, il consigliere leghista Francesco Vartolo, oggi della Lega di Verona, consigliere di circoscrizione, ha detto: finalmente il terrorista Mandela, belva assetata di sangue bianco, trasformato in eroe della propaganda mondialista, si troverà di fronte a tutta la gente che ha fatto ammazzare. Ma che dire, direi che è un po' confuso l'interlocutore che hai citato, perché i sudafricani hanno sempre temuto il momento della morte di Mandela. Quella belva assetata di sangue è l'uomo della riconciliazione, è l'uomo del superamento, che è diventato un modello culturale. Non a caso in molti paesi questa cosa non è accaduta, ma basta pensare alla guerra civile in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, non bisogna andare lontano. Quindi quello che ha fatto Mandela dopo la sua liberazione è stato obiettivamente un percorso straordinario. Mandela diventa presidente presidente a furor di popolo, ma è anche l'uomo che al primo mandato dice basta, interrompendo una pessima tradizione delle leadership africane, ma non solamente, di diventare presidente a vita, all'infinito. Senza di nuovo andare lontano dal Sudafrica, Zimbabwe, ex Rhodesia, un presidente che ancora oggi è lì con oltre 85 anni suonati. Insomma, Mandela è stato un uomo sorprendente e un uomo di grande charme, perché comunque, come l'abbiamo visto negli ultimi anni, la coda letteralmente di modelle, star, anche Naomi Campbell era, tutti volevano essere adottata come nipote. Il carisma di Mandela è obiettivamente qualcosa di eccezionale. A proposito delle donne, Gigi, le donne, Mandela è ovviamente ha fatto, e dico ovviamente perché una personalità così non potrebbe essere diversamente. Mandela giovane era avvocato, ma era anche boxer, era un bel tipo, era una persona che lascia il suo villaggio natale perché il padre lo voleva sposare secondo la tradizione Cosa con una ragazza locale. Lui dice no e fa quello che l'unica cosa che poteva fare, cioè scappa dal villaggio e va a Johannesburg, e lì sposa peraltro la prima moglie Evelyn, durerà 14 anni il primo matrimonio, poi c'è il lungo matrimonio con Winnie. Lungo soprattutto, la più conosciuta forse, così. Sì, la più conosciuta, anche se il terzo matrimonio con Graça Machel. Graça Machel è una intellettuale africana, moglie di uno dei più importanti leader della storia africana, Samora Machel, padre dell'indipendenza mozambicana. Insomma, anche le donne hanno un ruolo importantissimo nel suo percorso. Senti, per chiudere questa grande adunata a Soweto? Gli appuntamenti, come hai accennato, sono molti. Lunedì il Parlamento, martedì quindi Soweto, nello stadio del soccer, proprio quello che ha visto la finale dei mondiali 2010, sarà una prima grande adunata. È un luogo simbolico, un po' perché il 2010 è stata l'ultima grande vittoria di Mandela, che è riuscito a portare i primi mondiali di calcio in Sudafrica, non dimentichiamolo, molti pensavano sarebbe stata un altro bagno di sangue. Ecco, doveva essere un bagno di sangue che quello, invece è stata un'edizione assolutamente normale. E Soweto è un luogo simbolo. Soweto sta per South Western Township, cioè quelle township dove i neri sudafricani erano costretti a vivere. E Mandela nel 60 va in carcere la prima volta proprio perché dà fuoco al suo passbook, cioè a quel tesserino che solo i neri dovevano avere per uscire dalle township. Quindi è un ritorno a casa prima del ritorno definitivo a Kunu, quindi questo piccolissimo villaggio avrà 300 abitanti oggi nella campagna dove riposerà in pace. Grazie Gigi Donelli, grazie. E adesso invece cerchiamo di capire se questa tempesta che sta agitando parte dell'Europa si sta indirizzando anche verso l'Italia, o se possiamo accontentarci, insomma, di previsioni più o meno nell'ordine generale, lineare di questa stagione, con il colonnello Mario Giuliacci. Colonnello. Sì, buonasera. No, ciao, nessun Mario. Timore, nessun timore, perché Xaver, diciamo, si sta dirigendo verso l'est europeo. Solo marginalmente le sue correnti oggi hanno attraversato le valli alpine e hanno dato luogo a venti di fen anche forti nelle valli alpine, ma che poi in Valpadana si sono, direi, attenuate. Domani sì, ancora un po' di ventosità sull'Adriatico, ma la parte, direi, più potente di questa tempesta si è spostata, come dicevo, verso l'Ucraina, il Mar Nero, quindi lontano da noi. E invece per quanto riguarda il tempo domani e dopodomani, colonnello? Direi tempo splendido per quanto riguarda le piogge e le nuvole. Sì, domani poche nuvole sulle isole maggiori, dopodomani un po' di nuvole sulla regione tirrenica, ma niente di più. Però c'è un dato di rilievo, attenzione, che appunto quest'area marginale che ha accompagnato questa tempesta giunta dal nord Europa è piuttosto freddina e quindi travaserà sull'Adriatico domani, poi si riverserà su tutta l'Italia, quindi freddo domani e dopodomani su tutta l'Italia, specie nelle ore notturne del primo mattino, quando soprattutto al centro nord e in particolar modo al nord le temperature scenderanno sotto zero. Direi che quasi tutti i capoluoghi del nord Italia avranno temperature sotto zero sia domani che dopodomani nelle ore notturne del primo mattino. Grazie colonnello Mario Giuliacci, e poi tutto su www.meteogiuliacci.it. Grazie colonnello, buon tempo. Ciao, a te. Ciao, saluto ascoltatore, buonasera. E c'è Claudia Vanni, sempre lì a seguire il nostro, a seguire Renzi, mi stavo confondendo con i vari candidati, Matteo Renzi. in un minuto riesci a dirci un po' che cosa è successo, visto che è arrivato in ritardo? Matteo Renzi non è ancora salito sul palco. Ancora non è salito. Lo attendevano circa 1000 persone, come raccontavamo prima. Adesso sul palco c'è il discorso introduttivo del sindaco di Milano Giuliano Pisapia, che ha rivolto un saluto particolare proprio a Matteo Renzi, ha fatto appello a tutta la sua forza, a tutto l'impegno e al sorriso che il candidato di Firenze mostra, e poi ha auspicato, insomma, che il cambiamento con le votazioni dell'8 dicembre possano effettivamente concretizzarsi. Siamo ai saluti, tanti gli applausi, soprattutto. E anche noi, Claudia Vanni, siamo ai saluti. Mi dispiace perché io devo lasciare la linea, anzi, ci risentiamo tra pochissimo, giusto per ricordarvi i fatti principali.